in primo piano. Grazie Alessandro e buongiorno agli ascoltatori di Radio 24, benvenuti alla rassegna stampa. Molti i titoli sui giornali italiani questa mattina, molti e diversi, ma i maggiori giornali scelgono praticamente all'unisono di dedicare il titolo principale alla crisi economica e alle dichiarazioni sulla crisi economica, alle previsioni di misure sulla crisi economica che sono venute, che vengono in queste ore dal forum di Davos, uno dei massimi esercizi di confronto e in qualche misura anche di chiacchiera internazionale, perché al forum decisioni non se ne prendono ma si scambiano idee. Dunque vediamo rapidamente i titoli dei giornali principali, vedrete che c'è una certa coincidenza: Corriere della Sera, Davos, la ricetta del ministro Tremonti, crisi più regole, il ministro rilancia gli eurobond, Marcegaglia, la presidente di Confindustria, servono 7-8 miliardi, La Repubblica, Tremonti, riformare le pensioni, le nostre banche sono solide, la BCE, sacrifici per Italia e Grecia. E ancora il Messaggero, Tremonti, finanza ora si cambi, sappiamo che le riforme strutturali sono importanti e ne abbiamo bisogno, è una frase riferita del ministro dell'economia italiano. E ancora il Sole 24 Ore e l'ora degli Union Bond, Tremonti lancia da Davos l'idea di obbligazioni UE per i piani di sviluppo, Marcegaglia subito altri 7-8 miliardi. Vedete dunque una grande coincidenza nei titoli. Qual è la sintesi delle notizie che stanno sotto questi titoli? La leggiamo sul Corriere della Sera. Contro la crisi, i piani di aiuti pubblici servono a preservare coesione sociale e struttura industriale, ma non sono risolutivi. Lo ha detto a Davos Giulio Tremonti. Per il ministro dell'Economia è indispensabile soprattutto un'operazione di pulizia e trasparenza con regole più rigide e maggiori controlli sul sistema finanziario e bancario. Tremonti ha anche rilanciato il ricorso agli eurobond definendoli Union Bond, cioè titoli obbligazionari dell'Unione Europea. E mentre il presidente degli industriali Emma Marcegaglia chiede 7-8 miliardi per il rilancio, su come trovare queste risorse è duello in Italia tra Stato e Regioni. Ieri c'è stata la conferenza Stato-Regioni. Il Corriere della Sera, ma non solo il Corriere della Sera, affianca ai titoli sulle misure anticrisi di cui si parla a Davos l'annuncio di un'iniziativa del presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Vedremo che oggi Barack Obama, dopo uno o due giorni di relativa assenza dalle prime pagine dei giornali italiani, vi è tornato con diversi titoli. Ma sul Corriere della Sera, Obama attacca Wall Street, vergognosi quei bonus, una sortita di ieri sera, era già tardi per la stampa italiana, ma il Corriere della Sera è riuscito a raccoglierla, a metterla in prima. Ieri sera il presidente degli Stati Uniti ha fortemente criticato i bonus di cui godono molti manager americani e hanno goduto nonostante i danni della crisi. Sulla Sole 24 Ore abbiamo un commento, un'analisi con l'articolo di fondo, di apertura, di Luigi Zingales, che ha un titolo e un tono critico rispetto ad alcuni dei provvedimenti allo studio contro la crisi. L'occhiello dice salvataggi sbagliati, e già capiamo qual è il tono, e il titolo è Good Morning Bad Bank, cioè buongiorno cattiva banca. Scrive Luigi Zingales: siamo da capo. dopo che in ottobre il governo americano ha investito 300 miliardi di dollari nelle banche e ne ha garantito il debito a breve per altri 1000 miliardi di dollari, le richieste di salvataggio ritornano con la stessa periodicità dei risultati trimestrali. Il passivo aumenta, il fondo monetario, che un anno fa aveva annunciato 1000 miliardi di perdite per il sistema nel suo complesso, oggi parla di 2-3 mila miliardi, e le banche bussano alle porte del potere politico. Cambia il partito, negli Stati Uniti c'è stato, lo ricordate, l'avvicendamento tra repubblicani e democratici al potere, ma il ritornello non cambia, bisogna salvare il sistema bancario e per salvarlo sono necessari soldi, tanti soldi. Il Wall Street Journal scrive 2000 miliardi di dollari. Dunque di qui l'idea di una banca che raccolga i debiti delle altre banche. Infatti, scrive Zingales, l'unica soluzione praticabile è quella di strapagare questi titoli a spese del contribuente. Questa volta la chiamano bad bank o aggregator bank, ma altro non è che l'idea già portata avanti dall'ex segretario al tesoro Henry Paulson, un modo per scaricare sul contribuente le perdite delle banche. Insomma, l'analisi di Zingales a fronte di tanti commenti positivi e saluti al cambiamento che il Presidente degli Stati Uniti rappresenta o rappresenterebbe, l'analisi di Zingales è che i rimedi di Obama non sono poi molto diversi da quelli che aveva previsto Bush e non ne sono migliori. Però Obama è sulle prime pagine con titoli e con toni positivi per un'altra decisione. Addirittura la stampa di Torino sceglie di aprire il giornale con lavoro, parità, uomo-donna. La prima legge firmata da Obama è contro la discriminazione femminile, una legge che pone riparo alle differenze sul lavoro che ci sono ancora negli Stati Uniti, anche negli Stati Uniti, tra uomini e donne, e che si rifà al caso di Lilly Ledbetter, una operaia discriminata sul lavoro e che dopo una lunga battaglia giudiziaria e legislativa ha ora ottenuto una legge a suo nome. L'iniziativa di Obama è uno dei due focus di politica internazionale della stampa italiana di oggi, l'altro, e siamo sempre sul versante della crisi, lo troviamo nell'occhiello della stampa in prima pagina, ma lo ritroviamo su altre prime pagine, l'altro è la protesta in Francia, lo sciopero, Francia, 2 milioni di persone in piazza per contestare Sarkozy, uno sciopero che si è svolto senza particolari incidenti, tranne in serata quando c'è stato qualche tafferuglio a Parigi. Dunque la stampa dedica l'apertura alle misure di Obama per la parità uomo-donna. L'Unità fa una scelta analoga, ma ancora più elogiativa, direi, a tutto campo del Presidente degli Stati Uniti. Il titolo è Bentornata America, c'è una foto a tutta pagina di Obama con Lilly Ledbetter, l'ex operaia a cui è intitolata la legge, e fra i segnali del ritorno dell'America che l'Unità coglie, sì alla parità sul lavoro, Obama firma la legge dedicata a Lilly, operaia discriminata per anni, e poi il piano da 819 miliardi contro la crisi, tagli fiscali, fondi per le famiglie, scuole, sanità e infrastrutture, un piano che ieri ha ottenuto un primo sì dalla Camera degli Stati Uniti, manca ancora il voto del Senato, ma che non ha ottenuto quel voto bipartisan che Obama avrebbe auspicato, ma è stata votata dai democratici, i repubblicani hanno votato contro. L'Unità, ma soprattutto il Mattino, danno rilievo a un provvedimento italiano che, varato ieri dalla Camera, anche qui non siamo al varo definitivo perché si tratta solo del voto alla Camera, manca ancora quello al Senato, il primo sì bipartisan alla legge contro lo stalking. Il ministro Carfagna lo giudica una vittoria per tutti. Il Mattino lo mette con rilievo in taglio basso di prima pagina, mentre l'Unità fa un richiamo ricordando pena fino a 6 anni. Leggiamo dal Mattino: primo sì dalla Camera al testo che introduce il reato di stalking nel nostro ordinamento con un nuovo articolo, il 612 bis del codice penale. Chiunque minacci o compia atti persecutori nei confronti di qualcuno rischia il carcere fino a 4 anni. Se poi a molestare è il coniuge, anche separato o divorziato, il convivente o il fidanzato, se la molestia ha ad oggetto una donna incinta, la detenzione può durare fino a 6 anni. Il provvedimento è passato con una maggioranza quasi unanime e il ministro Carfagna ha detto una grande giornata per il Paese. Dunque, provvedimenti per la parità fra i sessi sul lavoro negli Stati Uniti, per la protezione dalle molestie in Italia, due segnali che la stampa italiana oggi giudica molto positivi. Prima di lasciarci per gli aggiornamenti del traffico, vi do una notizia dal secolo XIX, una curiosità che trovate solo su questo giornale: calcolato il vero costo di un SMS, 0,004 euro, cioè praticamente nulla. Una ricerca danese conferma uno studio USA che era già stato pubblicato nei giorni scorsi dal secolo XIX. La polemica del giornale di Genova è contro il costo, che sarebbe quindi eccessivo, di questo strumento di comunicazione ormai diventato estremamente popolare. E visto che abbiamo il tempo, vi leggo anche i titoli dei settimanali che sono oggi in edicola. Panorama dedica la copertina alla vicenda Genchi, allo scandalo del dossier sulle intercettazioni, l'uomo che spia lo Stato. L'Espresso invece dedica la copertina alla crisi col titolo Mal di debiti. Proseguiamo con questa rassegna dei titoli sulle prime pagine sui giornali italiani. Proseguiamo con un altro argomento che da giorni ci accompagna e che ha oggi quasi un piccolo, la vicenda di Battisti, il terrorista condannato in Italia in via definitiva per 4 omicidi e di cui il Brasile nega l'estradizione. I titoli sono centrati sulle dichiarazioni che ha fatto Battisti a un organo di stampa brasiliano. Battisti, rivelazione shock: Parigi mi consigliò la fuga. L'ex terrorista mi aiutarono i servizi segreti francesi. Sì, del Brasile a un avvocato italiano al processo. Lo stiamo leggendo dal Messaggero, ma trovate titoli analoghi praticamente su tutti i giornali. In un'intervista, l'ex terrorista Cesare Battisti rivela che furono i servizi segreti francesi a consigliargli la fuga in Brasile. Intanto la Corte Suprema brasiliana ammette un avvocato italiano al processo in cui si deciderà l'estradizione in Italia. Il ministro Frattini sicuro che la decisione cambierà. C'è tensione, ci sono molte polemiche. In un commento sul Messaggero il giurista Mirabelli giudica quanto sta avvenendo un fatto gravissimo che viola il trattato esistente tra Italia e Brasile, ma la polemica tra Italia e Brasile sulla vicenda Battisti stinge anche in altre direzioni. Per esempio Libero ne prende spunto per un titolo a tutta pagina in prima pagina: Sarkozy complice di Battisti, lui e la bella Carla. Lui è il presidente francese Nicolas Sarkozy, la bella Carla è Carla Bruni, moglie di Sarkozy. Sono stati i servizi segreti francesi a fare scappare l'ergastolano in Brasile. E poi il Libero pubblica anche in esclusiva le lettere tra il brigatista e una delle sue vittime, Torregiani. per Libero le accuse di Battisti o le illazioni di Battisti sui servizi segreti francesi sono assolutamente vere, anche se ieri da Parigi non sono venute né commenti né smentite. Sulla vicenda Battisti si innesca poi il dibattito estremamente alto sulla partita di calcio tra Italia e Brasile, o Brasile e Italia, è un amichevole, si giocherà a Londra in campo neutro, giocarla, non giocarla. Ieri ci sono stati i pareri di due ministri, il ministro della difesa e il ministro dello sport, contrari o critici sulla partita. Il ministro degli esteri ha invece espresso la speranza che si giochi e che l'Italia la vinca. Sul riformista Massimiliano Gallo avanza una sorta di battuta ironica, sportivo-politica, suggerendo uno scambio Battisti-Amauri. Amauri è il centrattacco della Juventus che ha doppia nazionalità e che potrebbe giocare sia nella nazionale brasiliana che in quella italiana. Altro tema che ci sta accompagnando da giorni, che ritrovate su molte prime pagine, non su tutti, è quello della vicenda dei lefebvriani riammessi da Papa Benedetto XVI nella comunione cattolica alla fine della scorsa settimana, e poi al centro di polemiche perché fra i vescovi cui è stata tolta la scomunica c'è anche un negazionista, e ciò è avvenuto proprio nell'imminenza della giornata dedicata alla memoria dello Shoah. Ieri a rinfocolare le polemiche ci sono state le dichiarazioni di un prete lefebvriano veneto che ha detto che le camere a gas erano semplicemente uno strumento per disinfettare. Camere a gas e Papa in moschea, si scatenano i lefebvriani italiani, doppio attacco, riesplode la polemica. Questo lo stiamo leggendo sul Corriere della Sera. Nella polemica sul negazionismo e la scomunica revocata scendono in campo i lefebvriani italiani. Don Floriano, capo della comunità lefebvriana del Nord-Est e vicino alla Lega, ha detto che le camere a gas sono state usate per disinfettare, e Don Pierpaolo, priore di Rimini, ha criticato il Papa per la preghiera nella Moschea Blu di Istanbul. Dunque un intreccio tra religione e politica che continua a interessare e a essere seguito dalla stampa italiana. Andiamo poi rapidamente ad altri titoli. Sul Tempo, anche sul Messaggero, su altri giornali, i seguiti delle vicende di violenze sessuali a Roma e dintorni, stupro a Guidonia, bomba carta contro una macelleria di romeni, restano in carcere i sei romeni che hanno stuprato, che sono stati coinvolti, quattro sono accusati dello stupro, due di favoreggiamento, una ragazza a Guidonia. Non si placa però la rabbia dei residenti. Nella notte scorsa una bomba carta è stata lanciata contro la macelleria di un romeno. Intanto, dopo la violenza del Quartaccio, un quartiere di Roma, Alemanno ha annunciato che il Campidoglio si costituirà parte civile. Ancora qualche titolo più leggero. La Nazione, e in genere il quotidiano nazionale, sceglie di puntare molto sulla prima pagina sul rosso truffa, l'inchiesta sui semafori taroccati. Arrestato il progettista del T-Red, il semaforo che scattava troppo rapidamente al rosso e che vi faceva prendere un sacco di multe. E poi, poi ci sono anche titoli che escono dal seminato, diciamo, che sono molto originali. Il Giornale apre con un titolo che lui stesso ammette, un titolo esclusivo che lui stesso ammette, ecco, il bar sport del Tribunale. Il Pubblico Ministero, Inter, partite perse per favorire le scommesse. Un rapporto della polizia, lo scudetto 2008 fu vinto volutamente all'ultima giornata e l'inquirente si chiede perché non ha giocato Balotelli. Dunque non solo ci sono in Italia 57 milioni di selezionatori della nazionale, ma evidentemente ci sono anche molti magistrati che vorrebbero fare o vogliono fare l'allenatore dell'Inter e scegliere la formazione della squadra. Ora concludiamo questo percorso sulla stampa italiana di oggi con una citazione dal Buongiorno di Massimo Gramellini, una rubrica del taglio basso della Stampa, che si intitola Bagna Cauda Bab. La Bagna Cauda è il cibo caratteristico della mia regione, il Piemonte. Il titolo è una crasi tra Bagna Cauda e Kebab e nasce dalle polemiche sui cibi etnici in questi giorni nelle città italiane. Scrive Gramellini, Libero Tandori in Libera Polenta avrebbe detto Camillo Benso, conte di Cavour. Invece di cacciare lo straniero, proprio noi che abbiamo colonizzato il mondo con le pizzerie, sarebbe forse utile capire le ragioni del suo successo. E con questo invito di Gramellini alla tolleranza e all'accoglienza, io vi saluto per oggi, vi auguro un buon fine settimana, un buon weekend e vi ringrazio per essere stati con noi questa settimana alla Rassegna Stampa. Buona giornata.